e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno... Allora, buongiorno, intanto sono le 10.35, è tempo di una nuova puntata di Cuore Denari. A proposito di tempo, è proprio la relazione tra tempo e cervello il tema scelto per celebrare l'edizione della Settimana Mondiale del Cervello. È una ricorrenza che è proprio pensata per promuovere maggiore consapevolezza nei confronti della ricerca su questo organo che è il più affascinante ma anche il più misterioso del nostro corpo. Allora, chi ha tempo non aspetti tempo per prenotare il suo intervento a Cuore Denari e per conoscere insieme al nostro esperto i segreti per mantenere il cervello giovane e sano. 800 24 00 24, un numero verde per cervelli in fumo, in fuga, brillanti ma anche un po' svagati, stanchi, lenti. Chiamateci per scoprire se l'età biologica del vostro cervello corrisponde a quella anagrafica o se è invecchiato. Vuoti di memoria, lapsus, difficoltà a imparare le cose e anche a ricordarle. Vi ritrovate? Allora, se il vostro cervello perde i colpi, battete un colpo al nostro numero verde. Noi vi stiamo aspettando, siete sicuramente in buona compagnia. Allora, per quanto riguarda i denari, invece, ve lo avevamo promesso venerdì, oggi analizziamo uno degli effetti più importanti della politica dei tassi zero e sotto zero della Banca Centrale Europea. A beneficiare del nuovo ulteriore ampliamento degli stimoli monetari deciso da Mario Draghi sarà certamente il settore dei finanziamenti per l'acquisto della casa e l'investimento immobiliare. Se parliamo di tempo, sono investimenti che durano lungo tempo, 15, 20, 25 anni. Intanto vi ricordo che domani trovate in edicola con il Sole 24 Ore il quarto numero del manuale di educazione finanziaria I tuoi soldi, ed è proprio dedicato questa settimana ai mutui. Noi invece dalle 11.20 circa ci chiediamo se davvero con le decisioni della Banca Centrale Europea da oggi i mutui saranno più convenienti. Faremo un viaggio fra i tassi e le regole per indebitarsi per un lungo periodo. Questa è una fase storica assolutamente irrepetibile, per cui bisogna fare anche grande attenzione a non indebitarsi troppo, perché poi nel tempo i tassi riprenderanno a salire, per cui attenzione soprattutto se avete in mente di fare il mutuo a tasso variabile. Intanto cominciate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino. Starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Volevamo vivere più a lungo, ci hanno accontentati, la vita media si è allungata, ma volevamo anche vivere bene, goderci quegli anni in più. Insomma, il nostro obiettivo non era solo quello di aggiungere anni alla vita, ma anche vita a quegli anni in più, per apprezzarli, goderli, ricordarli. Insomma, cari amici, sembra un po' la storia della bicicletta. A chi l'ha voluta, o in questo caso a chi per una serie di coincidenze, di geni, fortuna e stile di vita è stata data in sorte, tocca pedalare, e cioè aggiungere qualità a quegli anni di vita. Questo succede per tutte le parti del nostro corpo e anche e soprattutto per il cervello, di cui ci occupiamo oggi proprio in occasione della Settimana Mondiale che si inaugura oggi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alberto Albanese, ordinario di neurologia all'Istituto Humanitas di Rozzano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Intanto bentornato. Professore, rispetto agli altri organi, il cervello ha delle caratteristiche particolari, guai se così non fosse. Credo che possiamo proprio partire da qui, da come è fatto, da come funziona, per poi capire cosa gli fa bene e cosa non gli fa bene. Ci sono tantissimi luoghi comuni e tante cose che si davano per certe e che sono state invece poi smentite dalla ricerca. Professore. Sì, il cervello è un organo ovviamente importante, è una specie di computer che controlla tutto il nostro corpo, tutti gli organi interni, che ha un suo percorso, una sua evolutività, cambia nel tempo, e quindi l'arte, diciamo così, di vivere bene neurologicamente è quella di vivere bene ogni età. Noi potremmo pensare al cervello del bambino come a tante strade di montagna che si percorrono piano ma con grande gioia, con grande gioia paesaggistica ed emotiva. E possiamo pensare al cervello adulto come un cervello che ha costruito delle autostrade in cui ha delle connessioni molto più rapide, magari alcuni aspetti meno godibili ma tanta performance di diverso tipo. E quindi ogni età del cervello richiede l'utilizzo delle funzioni che nel tempo si, si sviluppano nel cervello con l'invecchiamento, con la crescita prima e l'invecchiamento dopo. Ecco, a proposito di invecchiamento, ma da quando, professor Albanese, il cervello inizia a invecchiare? Soprattutto cosa succede? Vorrei sapere, ad esempio, il cervello di una persona anziana è necessariamente un cervello meno funzionante rispetto a quello di un giovane o è solo un cervello diversamente utilizzato? Naturalmente entrambe le cose sono possibili. È chiaro che il cervello termina il suo sviluppo verso i 20 anni, così, ma in realtà continua a svilupparsi ancora ed è dotato di quella che si chiama plasticità. La plasticità nell'anziano tende a ridursi a favore dell'efficienza di sistemi più solidi, più come dire, collegati in maniera strutturale e meno disponibili a cambiamenti di collegamenti o rinnovamenti di collegamenti. Quindi alcune persone rimangono, tra virgolette, plastiche anche molto a lungo nella vita, anche in età anziana. Altre persone perdono un po' la plasticità, il che è naturale, e assumono un po' delle caratteristiche più dei contorni più evidenti, più riconoscibili sia sugli aspetti del comportamento che sugli aspetti delle scelte, che sugli aspetti delle preferenze. Quindi il cervello in qualche modo si dà un confine, ecco, in vari settori della sua operatività. Quello che ormai è dimostrato fa accelerare l'invecchiamento cerebrale è l'inattività. C'è un nuovo studio che arriva dagli Stati Uniti, pubblicato su Neurology, che ha associato la scarsità di attività fisica al restringimento del cervello almeno 20 anni dopo. Professor Albanese. Sì, questo è provato e riprovato da tanti studi anche rispetto alle malattie degenerative, all'Alzheimer, al Parkinson. Il fare attività quindi di tipo aerobico, quindi cardio fitness, in maniera regolare, chi la fa da 3 volte la settimana in più ha un'aspettativa di performance neurologica migliore nel futuro, una minore aspettativa di sviluppare malattie neurologiche degenerative, perché evidentemente intorno a questa attività non c'è solo un aspetto direttamente metabolico, ma anche la produzione di una serie di sostanze, endorfine e altre, che comunque facilitano una serie di connessioni plastiche, ed è quello che dicevo prima, cioè il mantenersi plastici è una delle migliori garanzie per prevenire le malattie dell'invecchiamento. Tra l'altro, a proposito di movimento, c'è proprio un'attività che olia, per così dire, le sinapsi e favorisce la formazione di nuovi neuroni nel nostro cervello. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Ogni attività va bene, ma ce n'è una in particolare, ci sono delle ricerche interessanti, ne parleremo col professor Albanese, ma intanto già provate a immaginarla. All'800 24 00 24 potete naturalmente raccontarci anche la vostra esperienza e dire al nostro esperto quali attenzioni dedicate al vostro cervello. Proprio come un muscolo, lo sappiamo, anche il cervello va allenato e utilizzato, perché tutto quello che non si usa si perde. Allora dateci la vostra ricetta per un cervello green al nostro numero verde, ma anche chiamateci per raccontarci se avete difficoltà di memoria, se fate fatica a concentrarvi, se vi sentite stanchi, se vi sembra di avere difficoltà a imparare cose nuove. Giusy ha subito raccolto il nostro invito, andiamo a sentirla prima delle informazioni sul traffico. Giusy, buongiorno. Buongiorno, e volevo innanzitutto salutare lei e l'altra conduttrice, che vi siete meravigliose. Grazie Giusy, grazie mille. Che bella coccola di inizio settimana. Grazie Giusy. Io sono un po' preoccupata perché faccio il lavoro, ahimè, dell'avvocato. Sì. E comincio a perdere un po' di colpi, nel senso che mi accorgo di dimenticare cose e oggetti, ma di poco tempo prima, nel senso che appoggio l'agenda e poi non ricordo più assolutamente dove l'ho messa, ma questo mi capita adesso da poco, ho compiuto i 50 anni, ho detto Dio, sto invecchiando tremendamente. Aspetta che chiamiamo Giusy, comunque si riposi un po'. Venga, guardi, io la capisco perfettamente. Professor Albanese, forse la capisce anche lei? Sì, no, ma spesso viene fatta questa domanda, è molto tipico, si parla di memoria. In realtà spesso le persone hanno, magari in quest'età in cui io non ho sentore anche dal tono della telefonata che ci siano problemi di memoria, difficoltà di attenzione. Le persone vanno in overload, non ne possono più delle mille cose che fanno e cominciano a essere disattente. E quindi dimenticano qui e lì, e sono delle forme se vogliamo, di protezione del cervello che va in sovraccarico. Noi dovremmo avere un dialogo aperto con il cervello, è chiaro, questo è una cosa che interessa più gli psicologi forse che i neurologi, però sapere quello che il nostro cervello vuole e può fare e ciò che non vuole e non può fare, noi lo forziamo spesso. E poi avvengono questi sintomi che sono, a mio parere, da come sembra di sentire, piuttosto non specifici in chiave neurologica, però poi possono portare a disfunzioni, a sofferenza, e quindi ho una pausa, ho una miglior conoscenza di sé, o se necessario una visita neurologica, si può testare naturalmente la memoria, si possono testare anche i profili psicologici, si può anche dare consigli sugli stili di vita. Allora, quindi il messaggio è assolutamente tranquillizzante. Ma mi sta chiedendo già subito un ascoltatore al 349-238-6666. Ci darà il professore un integratore per mantenere il nostro cervello giovane? Qualcosa di buono, diciamo, così per te. Diciamo che così come si va in palestra, secondo me, e ci si fanno i muscoli, bisogna anche attivare una palestra neurologica, una neurofitness. Ne parleremo nel corso della trasmissione, esatto. Perché devo dare le informazioni sul traffico e intanto soprattutto chiederemo al professor Albanese di aiutarci ad individuare quella linea, no, tra un sintomo del tutto innocente fisiologico, come nel caso di Giusy, avvocato, impegnata in mille cose, multitasking, per cui l'attenzione un po' cala ed ecco il vuoto di memoria, dai segnali che invece devono spingerci a fare almeno una chiacchierata con il nostro medico. Informazioni sul traffico. Cuore e denari. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione. Allora, proviamo ad utilizzare queste tre parole, attenzione, concentrazione, ritmo, ma quattro da, mettiamo anche vitalità. Abbondiamo. Per fare una sorta di autotest per il nostro cervello, da 0 a 10 proviamo a dare un voto alla nostra capacità di attenzione, al ritmo con cui impariamo cose nuove, affrontiamo impegni e sfide quotidiane, alla nostra concentrazione, quanto riusciamo a tenerla. Quindi attenzione, prendete il ritmo, concentratevi sui segnali che il vostro cervello vi manda e chiamate il nostro numero verde. Cogliamo l'invito, come anticipato, della Settimana Mondiale del Cervello che si apre oggi e che in questa edizione è proprio dedicata alla relazione tra tempo e cervelli. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Albanese, neurologo, ordinario di neurologia, lavora all'Istituto Humanitas di Rozzano. Professor Albanese, ma ci sono dei cervelli geneticamente predisposti a invecchiare meglio di altri e cervelli geneticamente predisposti a essere più vulnerabili al passare degli anni? Che cosa dice la ricerca riguardo? Quanto contano i geni e quanto soprattutto lo stile di vita, l'ambiente? Sicuramente io darei un 50-50, i geni sono molto molto potenti, molto importanti e si riconosce perché i longevi poi sono figli di longevi in genere e anche persone che hanno alta performance allo stesso modo, ma l'ambiente è anche molto importante, non si può dare credo una preponderanza tra i due. Persone che hanno in genere un buon patrimonio genetico spesso hanno un ambiente anche favorente questo, anche per la ragione che vengono portati ad essere stimolati anche dai loro genitori. Ma entrambe le cose sono importanti, veramente molto importanti. E quindi coltivare entrambi è l'arte di vivere. Poi i geni non si possono cambiare, però i geni subiscono fortemente l'influenza ambientale. Si fanno condizionare. L'ambiente può anche modificare i geni, oltre ad essere in generale favorente rispetto a delle capacità. Quindi non va sottovalutato, è molto importante. Allora abbiamo Carmen, ci chiama da Milano, e subito dopo Sergio dalla provincia di Ancona. Carmen, buongiorno. Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti in studio. E volevo portare semplicemente la mia testimonianza su come io personalmente, ma con me tante altre persone over 60, che facciamo parte di un gruppo teatrale, un laboratorio teatrale presso il Teatro Ringhiera, e da 5 anni ci cimentiamo nel portare in scena degli spettacoli, chiaramente seguiti dai registi. Questa cosa mi è molto servita per tenere effettivamente vivo il cervello, nel senso che mettere a memoria, rapportarsi con gli altri compagni, ricordarsi le posizioni quando sei sul palco, mi è veramente servito e penso di far cosa buona. Grazie Carmen per questa sua ricetta che racchiude tutte le indicazioni che vengono fuori da tantissimi studi a riguardo: imparare a allenare la memoria, imparare cose nuove, l'importanza della relazione. Poi Carmen non solo impara dei testi nuovi a memoria, ma professor Albanese ci ha detto anche la posizione in cui devo mettermi sul palco. Professore, sì, questa è anche la teoria della mente, nel senso che lei entra, come dire, in dei ruoli, entra in dei ruoli di personaggi che rappresenta, e questo è anche molto plastico in senso neurologico, facilita molto la plasticità neuronale. Tutto questo è un'ottima neurofitness, è utilissimo, assolutamente utilissimo, ed è questo in sostanza forse il miglior tipo di prevenzione, poiché sia a teatro o con altra modalità, certamente a tenersi molto allenati. Andiamo a Sergio dalla provincia di Ancona. Buongiorno Sergio. Buongiorno signorine bellissime. Grazie sì, per il bellissime e per le signorine. Beh, bellissime perché io sento solamente la vostra voce e mi tiene sempre in compagnia quanto viaggio. D'altronde mi fa molto piacere conoscere e sentirvi. Gli anconetani sono sempre una garanzia per noi. Grazie, molto gentili, proprio sono di Ancona proprio. Allora, Sergio. Allora, veniamo al dunque. Io ho fatto le gare in bicicletta fino verso i 34-35 anni, poi ho smesso completamente e ho ripreso a 51, circa i primi di dicembre dello scorso anno, anzi 50 anni più che meno, ancora non ero 51. I primi di dicembre ho ripreso, e ho ripreso così per gioco con degli amici cinquantenni. Sì. Vi posso assicurare che è tutta un'altra musica. Mi sono reso conto, ho buttato via praticamente 10 anni di vita, sono ringiovanito. Praticamente. Ho dimagrito, in questi 3 mesi poco più ho cambiato vita completamente e il mio cervello si è rigenerato, sono più attento, non perdo più le cose. Mi riferisco anche a quell'avvocato, sì, di prima, che dimenticava l'agenda. Sì, allora io, sì, e esatto. Giusy dovremmo venire in bici o forse fare un giro in bici, veniamo con lei. Chiedo scusa, ma anche perché nell'attenzione di andare in mountain bike fuori strada ci vuole un'attenzione particolare e il cervello è molto molto impegnato a fare attenzione dove metti la ruota, perché c'è anche rischiare la vita. E certo. Hai capito? Grazie Sergio. Grazie della possibilità. Grazie a lei. Una buona giornata. Allora, mountain bike, ma sicuramente, professor Albanese, fare attività fisica è un modo ormai scientificamente riconosciuto di preservare la capacità cerebrale, ma è stato dimostrato che uno sport in particolare riesce ad aumentare proprio i livelli di produzione cerebrale? No, tutta l'attività di tipo cardio fitness, quindi può essere bicicletta, può essere corsa, può essere altro tipo di attività, perché è un mix, cambia sia il metabolismo, diciamo a livello somatico, e il metabolismo cerebrale, produce sostanze trofiche nel cervello, e poi ci sono tutti questi altri aspetti molto importanti di postura, attenzione, controllo ambientale, che quindi sono esercizi continui. Quindi bici, corsa, tutta l'attività aerobica, sì, sì. Devo salutarla, ma lei resti con noi, professor Albanese, naturalmente segnali da non sottovalutare nella seconda parte della trasmissione, e farmaci. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, abbiamo ancora un po' di tempo, a proposito di tempo e cervello, da dedicare al tema di questa prima parte della trasmissione. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Albanese. Tante richieste all'800 24 0024. Professor Albanese, ci scrive un ascoltatore su WhatsApp per chiedere se ci sono dei medicinali, dei farmaci che possono influire sul decadimento del cervello. Parliamo naturalmente di terapie per malattie croniche, possiamo fare delle grandi famiglie, di suddividerli in grandi famiglie di farmaci, ce ne sono alcuni che possono attentare al nostro, il nostro cervello? Sì, sicuramente farmaci che hanno un'azione sedativa, se presi molto a lungo, se presi anche a dosaggi importanti, possono ridurre le funzioni cerebrali. Quello che dicevo prima rispetto alla plasticità, il cervello ha bisogno di essere continuamente in allenamento e quindi sviluppare i suoi contatti, sviluppare contatti nuovi. È chiaro che se noi lo sediamo in maniera cronica, quindi ci sono tanti farmaci che in varie modalità sono sedativi, questo riduce anche la plasticità possibile e quindi la dinamicità possibile del cervello. Questo direi in linea generale si può affermare. Professore, noi pensiamo sempre al cervello come sede del ragionamento, del pensiero e misuriamo il suo benessere e la sua attività in relazione alle funzioni cognitive. Quali sono i segnali che possono tradire un invecchiamento, direi, patologico del nostro cervello e tradire magari degli iniziali segni di demenza? Noi adesso c'è molta attenzione su quello che si chiama deficit cognitivo soggettivo, che è uno stadio ancora precedente rispetto a quello di cui si parla di più, che è il MCI, Mild Cognitive Impairment, il deficit cognitivo lieve. La differenza è proprio, ci possiamo rifare alla telefonata di prima dell'avvocato, e le persone che hanno un deficit cognitivo soggettivo si rendono conto di avere qualcosa che non va. Hanno una consapevolezza profonda che non riescono a fare qualcosa che prima facevano. È molto ben rappresentato, secondo me, filmicamente dal film Still Alice, per chi l'ha visto, in cui credo anche Julianne Moore ha vinto il premio Oscar come migliore attrice, e in effetti è anche neurologicamente molto brava nel mostrare questi primi impacci quando lei corre, non riesce a orientarsi o fa una presentazione e non le vengono alcune parole. Però questo non è qualcosa detto, che non viene detto, riferito come è stato riferito nella telefonata di prima, è riferito con una profonda consapevolezza. È molto importante questo stadio, perché è lo stadio in cui noi oggi cerchiamo di dare terapie il più precoce possibile, quindi quello in cui ancora oggettivamente non si vede un decadimento, ma la persona se ne rende conto. Cerchiamo conferme nei familiari, che a volte, se sono attenti, possono dire sì, c'è un cambiamento oggettivo di questo, e poi ovviamente abbiamo degli esami che possono mostrare l'accumulo di sostanze che non dovrebbero esserci, che sono sostanze, come dire, caratterizzanti le malattie degenerative, e allora a quel punto si può avere una conferma, proprio come nel film peraltro. Quali sono questi esami, professore? In genere siamo delle neuroimmagini, per esempio si può cercare l'accumulo di amiloide attraverso una scintigrafia, si può cercare un'atrofia selettiva per esempio dell'ippocampo attraverso un esame morfologico come la risonanza magnetica, si possono andare a cercare delle conferme biologiche e si cerca di identificare, di posizionarsi proprio nel momento più precoce possibile, che è quello non preclinico, perché tendenzialmente non riusciamo, ma quello proprio dei minimi segni che sono percepibili solo dalla persona. A quel punto noi possiamo precocemente dare delle terapie che potenzino queste funzioni, perché abbiamo delle terapie sintomatiche. Quello che non abbiamo ancora è delle terapie che fermino le malattie neurologiche degenerative, quindi il fattore tempo entra come un fattore che gioca, noi cerchiamo di giocare sul tempo rallentando, certo, rallentando il processo degenerativo e quindi dando più anticipando tempo, la diagnosi. Anticipando la diagnosi e cercando di dare più tempo alle persone per una buona performance cognitiva. Professore, prima di dare la parola poi a Maria e a Paolo che ci stanno chiamando all'800240024, in realtà il cervello è anche movimento. Ci sono dei segnali sospetti che riguardano l'area motoria che possono tradire un problema cerebrale? Sì, ci sono stati due studi molto interessanti, uno sul tremore e l'altro sulla lunghezza del passo. È stato visto che la probabilità di sviluppare un decadimento in senso generico del cervello, diciamo quindi che sia Parkinson, che sia decadimento cognitivo, ma in generale è funzione diretta di quanto è lungo il nostro passo. le persone cominciano ad avere un passo impercettibilmente un po' più corto, e questo è un indicatore molto forte dell'avvicinarsi di un decadimento. L'altra cosa, i lievissimi tremori, i minimi tremori. Noi sappiamo che nell'anziano è, come dire, una cosa nota anche così, che si racconta dell'anziano che trema, no? E non parlo del tremore del Parkinson o dei tremori propri di malattie, quel lieve tremore dell'anziano. È stato dimostrato che le persone che hanno, come dire, quando estendono il braccio, una mano nell'aria ferma, hanno molte minori probabilità di avere un decadimento cerebrale rispetto alle persone che hanno lievi tremori. Quindi la comparsa, non voglio spaventare nessuno. No, adesso, perché allora, se vedesse in studio professor Albanese, stiamo facendo il Deborah test. Siamo qua. Per cui braccio e gamba ci danno un po', gamba inteso come passo, ci danno un po' un'indicazione della salute del nostro cervello o della sua, no, predisposizione a invecchiare bene. Del rischio di sviluppare un decadimento. Io devo dire che incamminiamoci, perché sì, siamo ferme. Ma non tremi, ma allora, non posso. Professor Albanese, abbiamo Maria da Treviso e Paolo dalla provincia di Cuneo. Ultimi minuti prima di passare il tema ai che denari, ci fa tremare un po' i polsi. Che ci fa tremare, a proposito. Allora, Maria, buongiorno. Maria? Vi ringrazio moltissimo per questa opportunità. Sì. Io e anche lei sta facendo la prova del braccio? L'ho fatta immediatamente. Come è venuta lei? Ottimo, almeno quello. Vai allora. Senta, io ho 46 anni, una bambina di 8, e da qualche anno, direi sì, soprattutto negli ultimi 2 anni, cosa mi capita? Che io devo dire a mia figlia, prendi questa penna, e al posto di penna dico un'altra parola che non c'entra niente. Casa al posto di chiesa. E mi capita abbastanza dissovente, tant'è che è una cosa che, della quale io sono pienamente cosciente e mi deprime alquanto, ma ultimamente mia figlia mi dice, mamma, ogni tanto sei un po' svampita, e ho capito che intende quello, lei ha 8 anni, si esprime ovviamente come può, e detto questo ho una difficoltà estrema a memorizzare, e quando cerco di memorizzare qualcosa anche sul lavoro, che quindi è penalizzante, e quindi sono costretta a scrivere veramente tutto, ho quasi un rifiuto da parte del cervello a memorizzare le cose che vorrei imparare, anche cose che magari io mi sono laureata al tempo e dovrebbero essere anche abbastanza semplici o comunque non di difficoltà così estrema. E quindi mi domandavo come mai mi accade questo. Ecco. Professor Albanese. Sono persone con meno memoria e persone con più memoria. Ci sono persone che hanno un po' la tendenza, non so se lei sbaglia anche i nomi delle persone, chiama una persona sì, con il nome altro sbagliato, che, sì. Altro che, oppure non mi viene in mente assolutamente il cognome o il nome pescare, di una persona. Sì, c'è una persona che ha tendenza a pescare, diciamo, nella memoria semantica più che nella memoria verbale. Ci sono dei profili personali di capacità e questo probabilmente rientra in un suo profilo personale, sul quale lei può intervenire eventualmente, può fare esercizi di memoria, può fare esercizi di focalizzazione, per esempio gli esercizi che si fanno in ambiente diciamo sociale, in certi ambienti sociali, quelli di imparare il nome il cognome delle persone istantaneamente per evitare, per esempio a livello di ambasciatori o di altro, di chiamare una persona col nome sbagliato. Quindi sono proprio delle tecniche che consentono di migliorare questo. Ma da come lei lo racconta rientra un po' in un suo profilo personale, non ha rilevanza neurologica, però ci si può lavorare volendo. Quindi, oppure quindi può fare tutte quelle serie di esercizi che vengono mirati, suggeriti. In questo caso, mirati per esempio a potenziare la memoria, a potenziare l'attenzione, usare anche dei trucchi, per esempio sui nomi, sui cognomi, associare parti del corpo, associare modi di vestire, associare altre caratteristiche a dei nomi o dei cognomi, in maniera da essere rapidi nel retrieval delle informazioni. Dovremmo, proprio come abbiamo fatto lanciato l'iniziativa Meno Pancia Più Salute, nei prossimi mesi pensare proprio ad un programma di allenamento per il nostro cervello. Ci faremo aiutare dal professor Albanese, a cui chiedo di rispondere rapidamente a Paolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie della compagnia automobilistica e delle notizie che mi date tutti i giorni. In parte la mia domanda era già stata fatta prima, ma vedo di essere il più breve possibile. Ho 73 anni, continuo a lavorare, quindi mantengo la mente in movimento. Sto notando che la mia memoria, la paragono a un computer o a una cassettiera. Ecco, è un po' piena, vero, vero Paolo? Piena, e non riesco più a mettere dentro niente, poca roba. Volevo sapere se si poteva svuotare in qualche modo qualche cassetto. Normalmente ci vuole un po' di repulisti. Si svuota automaticamente. C'è un caso clinico strepitoso pubblicato tanti anni fa da Luria di un paziente che non riusciva a dimenticare. Ha dimostrato che l'incapacità a dimenticare non consente di aggiungere altre informazioni. Saper dimenticare è altrettanto importante quanto saper ricordare. Diciamo che non è facile aiutarla in questo senso. Anche lei, esercizi di memoria che potenziano la memoria ce ne sono. Forse lei è una persona che può anche dare meno attenzione, ridurre l'attenzione in alcuni settori. O quindi gravarsi. Sapere dove concentrarsi. Professore, sì. Intanto anche Humanitas partecipa alla Settimana Mondiale del Cervello. Sul sito di Humanitas trovate le indicazioni, organizzano anche una mostra bellissima. Sul sito neuro.it trovate invece tutti gli altri appuntamenti lungo lo stivale delle iniziative in occasione della Settimana Mondiale del Cervello. Professor Albanese, grazie. Grazie a voi. Buona giornata e buona Settimana Mondiale del Cervello. Arrivederci. I tassi di interesse resteranno bassi, molto bassi, per un esteso periodo di tempo e comunque ben oltre il termine attuale del programma di acquisti. Very low for a long period of time and well past the horizon of our purchases. Le parole che Mario Draghi ha pronunciato nella conferenza stampa successiva alla riunione della Banca Centrale Europea di giovedì sono musica per le orecchie di chi ha un mutuo a tasso variabile, lo ha sottoscritto qualche tempo fa, perché la sua rata continua a scendere e a scendere. Ma la prospettiva è interessante anche per tutti gli altri che sono pronti a firmare un contratto di mutuo o si stanno mettendo alla ricerca proprio in questo periodo. Le condizioni dei prestiti sono davvero irripetibili, questo è un momento storico irripetibile. Noi faremo un punto intanto sull'offerta bancaria che è possibile trovare adesso, ma vorremmo anche dare ai nostri ascoltatori tutte le raccomandazioni necessarie per non fare errore, per non fare errori che potrebbero poi rendervi la vita difficile fra qualche anno, quando, anche se lo sappiamo bene che non accadrà domani, ma fra qualche anno ricominceranno, i tassi riprenderanno appunto a salire e con essi anche le rate del mutuo che stiamo pagando, sempre al netto di shock di mercato improvvisi che rischiano di far saltare tutti i nostri programmi di stabilità finanziaria della famiglia. Certo, speriamo che non ce ne siano, ma l'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che in realtà lo shock è tale proprio per questo, perché si verifica all'improvviso e non si preannuncia certo. Allora, oggi si sono resi disponibili per noi due grandi banche, faremo loro tutte le domande che vanno fatte quando si chiedono informazioni sui mutui e soprattutto cercheremo di fare un ABC chiaro sulle domande che vanno fatte ora. Intanto voi cominciate a farla a noi, all'800 24 00 24. Saluto e ringrazio per essere con noi la dottoressa Arianna Azzolini. Buongiorno. Responsabile prodotti e servizi per i privati per il gruppo BNL, gruppo BNP Paribas. E poi buongiorno e grazie anche a Lorenzo Montanari. Cioè, ci sente? Buongiorno a tutti. Che è direttore generale di Crea Case, la società specializzata nella distribuzione di mutui alle famiglie del gruppo Credito Emiliano. E quindi ribadisco 800 24 00 24, numero verde per tutti i vostri interventi. Raccontateci un po' che tipo di offerta state trovando in questo momento. Vi state focalizzando solo sul tasso di interesse o alla banca chiedete qualcosa di più? Vi interessa anche tutto ciò che riguarda naturalmente la prestazione del servizio di consulenza sul mutuo, perché è molto importante questo aspetto. Non soffermatevi solamente sulla prima rata che pagherete non appena il mutuo vi è stato erogato, ma noi ci raccomanderemo soprattutto questa mattina sul tema simulazioni, su tutto quello che potrebbe accadere nei prossimi 10, 15, 20 anni. Lo so che nessuno può fare previsioni, nessuno ha la sfera di cristallo, ma possiamo magari fare delle ipotesi sulla base di quello che è successo negli ultimi 10 anni. Uno shock improvviso, siamo in grado di sostenerlo? Allora, dottor Montanari, comincio con lei per un attimo. Tassi super negativi, che più negativi di così non si può. Direi che chi sta ormai pagando da qualche anno un mutuo a tasso variabile difficilmente può vedere la rata scendere ancora più in basso. Forse qualche altro eurino può ancora scendere, ma gli Euribor, che sono quei tassi interbancari a cui generalmente i mutui a tasso variabile appunto sono collegati, sono addirittura negativi per alcune scadenze, per cui non so quanto ancora si possa scendere. In questo scenario, che tipo di domande vi stanno facendo i potenziali clienti che vanno alla ricerca di un mutuo? Ma innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ma innanzitutto la discesa dell'Euribor sotto lo zero era un'eventualità probabilmente poco considerata, considerata poco realistica dalle banche fino a un po' di tempo fa. Tra l'altro, insomma, oggi più o meno tutte le banche stanno anche valutando come gestirla anche in termini di relazione col cliente, perché effettivamente il calo sotto zero dell'Euribor è una novità che tutti dovremmo gestire anche nei confronti dei nostri clienti. Diciamo che non è che sia proprio profittevole per la banca, ecco, in questo momento. Sì, al di là di questo, che poi insomma, voglio dire, è diventato poco profittevole l'attività di intermediazione del denaro generale per le banche, quindi anche queste, che ovviamente i mutui sono una di queste, ma voglio dire gli impieghi in generale sono diventate un'attività che presentano livelli di rischio, ma a livelli di remunerazione decisamente più contenuti rispetto a solo a qualche anno fa. Ad oggi i clienti ovviamente ci chiedono ancora, mi riferisco non tanto a chi ha già un mutuo, ma a chi approccia, come diceva lei prima, l'idea di fare un mutuo per acquistare la casa, ci chiedono ancora cosa è meglio fare in uno scenario di questo tipo, perché evidentemente si fanno attrarre dal fatto che c'è un Euribor negativo e quindi spread, diciamo così, parametro che unito allo spread porta ad un tasso finito molto conveniente. Devo dire che però molti clienti capiscono anche che forse oggi la soluzione migliore è fare un mutuo a tasso fisso, perché il parametro IRS, che comunque è quello su cui ancoriamo gli spread sui mutui a tasso fisso, è sceso notevolmente anche quello. Infatti. E considerando operazioni di solito vanno a 20, 25, 30 anni, diciamo che oggi ci si possono assicurare tassi fissi assolutamente convenienti. Dottore Sazzolini, faccio fare un commento anche a lei prima di prenderci la nostra prima pausa dedicata al racconto della giornata in borsa. Molto spesso abbiamo letto sui giornali di tante notizie relative al boom che sta registrando il mercato dei mutui dall'inizio dello scorso anno. In realtà abbiamo anche più volte spesso spiegato molto dettagliatamente che non si tratta di erogazioni nuove o almeno non al 100%, ma è molto vivace il cosiddetto mercato delle surroghe, perché proprio rendendosi più convenienti i tassi di interesse, chi aveva un mutuo vecchio, magari sottoscritto non tantissimo indietro nel tempo, ma banalmente anche 5 anni fa, sta cercando di cambiarlo chiaramente, o quantomeno di rinegoziare le condizioni con la banca. Sta accadendo così anche in casa vostra e soprattutto per chi chiede il nuovo, come tentate di orientarlo in questa fase? Sì, sicuramente anche in casa nostra stiamo vivendo il fenomeno delle surroghe e delle rinegoziazioni, ma anche stiamo vivendo una nuova linfa per la richiesta di mutui per nuove case. In questo senso, come già diceva lei, la scelta del mutuo non va fatta solo in funzione del tasso, ma bisogna in qualche modo approcciarsi con maggior consapevolezza, e in questo la relazione con la propria banca, con il proprio gestore, credo sia l'approccio migliore per poter affiancare in un momento importante della propria vita il cliente o il potenziale cliente, per fare in modo che lui possa determinare al meglio la soluzione più sostenibile per lui. Certo, senta, visto che naturalmente poi è il tasso di interesse, quindi la rata, il tema principale che interessa ad un cliente, voi che tipo di sforzo chiedete al cliente? Nel senso, lo indirizzate e anche lo orientate a fare attenzione su quali altri punti? Su che cosa insistete quando fate consulenza? Visto che quello è uno dei tanti aspetti, è evidentemente il più importante, perché poi la rata ce la dobbiamo portare dietro per tutta la nostra vita, però su che cos'altro chiedete un impegno maggiore alla clientela di fare attenzione? Sì, intanto facendoci un po' forti della gamma molto varia di prodotti che possiamo offrire, cerchiamo di capire in relazione alla capacità di reddito del cliente, dalla sua disponibilità finanziaria e anche, se vogliamo, alla prospettiva di vita, alla sua economia quotidiana nel tempo, cerchiamo di fare delle simulazioni, di affiancarci a lui con un approccio consulenziale, in modo tale da poter sottoporre le possibili soluzioni che in qualche modo non devono solo tener conto della sua capacità nell'immediato, ma soprattutto che gli possano consentire nel tempo di mantenere la sostenibilità, certo, dell'operazione. Su questo, se mi permette, Ricordo anche che a fianco del mutuo c'è sempre la possibilità di proporre l'assicurazione, la cosiddetta Credit Protection Insurance, che dà la possibilità al cliente di coprirsi a fronte di rischi di decesso, di invalidità permanente, ma anche di perdita di impiego, che in qualche modo possono far affrontare, certo, in modo più sereno il futuro. Giusto un dato, nel 2015 nel caso di BNL abbiamo pagato ai clienti più di 21 milioni di euro di sinistri e circa 7 milioni e mezzo sono stati proprio relativi alla sola garanzia di perdita, esatto, di impiego. E quindi magari lo dico anche a quegli ascoltatori che quando sono in fase di sottoscrizione del contratto di mutuo magari si sentono un pochino pressati anche nel fare la polizza assicurativa accessoria, non parlo di quella relativa alla casa, parlo proprio di quella relativa alla situazione personale. Mi rendo anche conto che qualche banca può essere insistente, però è anche vero appunto, e non è la prima volta che me lo sento raccontare, che poi improvvisamente quando ci si trova in una condizione professionale momentaneamente, perché io difficile, per tutti mi ha, esatto, poi questi strumenti assicurativi fanno poco, fanno molto, fanno comodo, e abbiamo appunto più spesso avuto il racconto di compagnie di assicurazione che hanno liquidato tantissimo in questi anni proprio perché aveva avuto la lungimiranza di sottoscrivere anche il prodotto assicurativo. Detto questo, che chiaramente il tema di oggi non è chi si trova in difficoltà cosa fare, però il tema è appunto che tipo di consulenza ci dobbiamo aspettare dall'interlocutore bancario al quale ci rivolgiamo in questo momento. Quindi nella consulenza fatta bene ci deve essere anche la presentazione adeguata del prodotto assicurativo. Poi vogliamo farlo o non farlo, questa è una nostra scelta assolutamente personale, però anche questo deve esserci. Adesso andiamo in pausa, abbiamo la borsa. Chiedo intanto sia a Lorenzo Montanari che ad Arianna Azzolini magari di pensare per un secondo ad un paio di simulazioni per chi sta andando a fare qualche domanda a qualche banca in questo momento. Così fateci due simulazioni per un mutuo da 100.000 euro, valore della casa 150, durata 20 anni, diteci in questo momento quale potrebbe essere una rata per un mutuo a tasso fisso, un mutuo a tasso variabile. Sono due offerte basilarissime, standard, però tanto per capire che differenza di rata c'è, e poi da lì faremo una consulenza, speriamo, un po' più ampia. A tra poco. Cuore e denari. Cadono giù i tassi per opera della Banca Centrale Europea, ci stiamo chiedendo che cosa succede nel mercato dei mutui, naturalmente si stanno facendo avanti molti ascoltatori che lo stanno già pagando e chiedono, si stanno chiedendo, ma insomma ci saranno dei margini per renderlo ancora più convenienti? Il mutuo per renderlo ancora più conveniente alla luce appunto di questa politica monetaria così espansiva, e poi si stanno facendo molte domande coloro anche che stanno andando a caccia del mutuo proprio in questo momento, come confrontare l'offerta, e direi che insomma noi stiamo puntando soprattutto sulla qualità della consulenza della banca, oltre che l'aspetto più importante della sostenibilità della rata. Non ingolfatevi, soprattutto se state facendo il mutuo a tasso variabile. Non fatevi la rata insostenibile per la famiglia, o quantomeno sostenibile al limite, perché poi fra 3 o 4 anni, quando i tassi riprendono a salire anche poco, un piccolo sbilanciamento vi sbilancia tutto il bilancio familiare, tanto per utilizzare appunto lo stesso termine tre volte nella stessa frase. A sottolineare il concetto. Esatto. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Si sono fatti avanti, dicevo, Leonardo da Trani e Gladys da Modena, ma prima ho fatto fare una rapida simulazione ai nostri ospiti di stamattina. Dottor Montanari di Crea Casa, la società che distribuisce mutui alle famiglie del gruppo Credito Emiliano, e poi la dottoressa Arianna Azzolini, responsabile prodotti e servizi per i privati BNL Gruppo Benpe Paribas. Montanari, ce l'ha pronto per noi? Simulazione, allora le ho chiesto. No, non ce l'ho proprio in vabbè, ma in ce l'avrà a memoria. Quindi me la stanno facendo, perché ho chiesto ai colleghi di farmela al volo. Grazie, vedi quanto sono stata un po' perfida. Dottoressa Azzolini, lei ce l'ha fatta o anche lei ha bisogno di qualche minuto di tempo? Siamo ottimo, pronti. Ci dica un po' lei. No, ma vedi, secondo me Montanari, perché vuole sentire la vostra e poi farà lo splendido facendocene allora, una migliore. Allora buste chiuse. No, dottoressa Azzolini, tanto per dare un orientamento, poi chiaramente sono... Sì. Ovviamente delle stime assolutamente superficiali, diciamo così, molto prudenziali, ecco. Allora le ho chiesto un mutuo da 100.000 euro, stiamo comprando una casa che ne vale 150. Dove la stiamo comprando? altro tema fondamentale, perché se la compro a Milano ha probabilmente un valore, se la compro a Castelfidardo, a casa mia, o a Torino, beh, appunto da Nicoletta, sì, ne ha un altro. Comunque 20 anni di durata, tasso fisso e variabile, ci faccio le due rate, da cui si parte. Sì, allora, tasso fisso, la rata mensile è di 515 euro e nel caso del tasso variabile è di 460 euro, quindi di fatto la differenza tra i due è di 55 euro al mese. Esatto, e che magari per una famiglia può essere certamente molto, ma direi che indebitarsi per 20 anni per sempre a 515 euro a Milano, direi che vale abbastanza la pena in questa fase, no, dottoressa Azzolini? Sì, assolutamente sì. Non vedremo mai più questa situazione. Assolutamente sì, e nella logica che dicevamo prima di stare attenti e di fare in modo di fare una scelta che sia sostenibile nel tempo, la valutazione di queste 55 euro di differenza al mese tra il fisso e il variabile è da ponderare bene, nel senso che di fatto ti cauteli nel futuro di fronte a possibili aumenti, certo, di tassi. Mi premeva anche ricordare che oltre al tasso poi ci sono le spese accessorie. Sì. Quindi, ce lo dica subito. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori quali sono, e quindi che non si presentino in banca, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, non è solamente il tasso di interesse la variabile più importante che condiziona l'erogazione del prestito, dottoressa Azzolini. Infatti, andiamo agli altri ci temi. Ci sono le spese di istruttoria, le spese di perizia, l'imposta sostitutiva, che ricordo varia tra prima casa e seconda casa, le spese notarili, le spese qualora presente dell'intermediario e poi, come già accennava lei prima, l'assicurazione che è obbligatoria per l'incendio e scoppio. Ricordiamo, poi magari ci rifaremo un'altra puntata, ne abbiamo parlato molto spesso, non è obbligatorio sottoscriverla con la banca che eroga il mutuo, dottoressa Azzolini, giusto? Assolutamente, ecco, ha ragione. Perché c'è stata tanta polemica in passato su questo conflitto di interesse, per cui potete prendervi anche del tempo, il tempo necessario per andare poi a fare un'altra ricerca della polizza sulla casa. Quindi spese istruttorie e perizia, in particolar modo sono quelle che riguardano la banca stessa, le altre naturalmente di spese si sostengono il giorno del rogito davanti, certo, al notaio. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per gli ascoltatori che ci chiedono consulenza. Dottor Montanari, se è pronto col suo preventivo, io lo faccio raccontare. Ci sono. Un po'. Ma diciamo che siamo sostanzialmente sui livelli, sui valori che abbiamo appena sentito. Noi su un fisso siamo su una rata attorno ai 520 euro, il fisso è 455 sul variabile, quindi insomma veramente sì, più o meno si equivalgono. Parliamo ovviamente di offerte entro i 20 anni sulle percentuali di finanziabilità che citava lei. Un altro tema che non abbiamo ancora anticipato e citato è quello dello spread, perché naturalmente le banche sul tasso di interesse, cioè la rata è composta anche da quel guadagno che la banca deve fare. Adesso anche lì cercheremo di capire quanto siete concorrenziali fra di voi. Andrei invece a Gladys da Modena, buongiorno. Buongiorno, ho chiamato per fare una consulenza. Io abito in provincia di Modena, ho preso un mutuo 10 anni fa. All'inizio era tasso variabile, poi è iniziato a salire e l'ho stabilito con un fisso. Dopo è successo il fatto del terremoto in Emilia, la casa ha perso molto valore e io mi trovo oggi a pagare una rata mensile molto alta rispetto a quello che potrei pagare se la banca mi venisse incontro per rifinanziare questo interesse a un tasso più debole, diciamo così. Sì. Non riesco a fare la surroga perché, siccome siamo stati terremotati, abbiamo fatto l'interruzione del pagamento per un bel po', la banca che mi accetterebbe la surroga mi chiede di cancellare il debito residuo non pagato durante un anno e mezzo, certo, è una cifra molto alta per me. Quindi io chiedo che come... Perché lei ha fatto muovere anche una sospensione nel frattempo, Gladys. Esattamente, perché abbiamo perso... Allora, ascolti Gladys, guardi, è una situazione... Io adesso potrei anche far intervenire Lorenzo Montanari e Arianna Zolini, che avranno certamente una risposta con lei. Però io le chiedo, magari ci scriva, io andrei direttamente alla banca o alle banche con cui sta dialogando per capire dove si inceppa il meccanismo. Perché adesso, a prescindere dal fatto che le banche non sono obbligate ad accontentarci se noi andiamo a fare delle richieste, però infierire sulle persone terremotate, questa è una cosa che veramente veramente mi infastidisce, e sentirsi dire sempre no rispetto a delle difficoltà, questo è veramente un po' sgradevole. Le farei fare così, Gladys, ci scriva. Marco adesso prende i suoi riferimenti, cuoredenari@radio24.it, e andiamo dritti al problema, perché qua non è una consulenza necessaria, perché Mario Draghi ha abbassato ancora i tassi, è una situazione un po' più delicata, per cui vorrei prendercela a carico in maniera un po' più significativa. Ci fermiamo, traffico, a tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati, gli ultimi minuti di tempo per parlare di mutui, cosa fare in questo momento con i tassi sempre più bassi. Allora, Lorenzo Montanari, Arianna per il Credem, Crea Case, Arianna Azzolini, BNL Gruppo BNP Paribas con noi quest'oggi per farci e farvi una consulenza su quello che dovete chiedere in banca per avere naturalmente tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere il mutuo che fa il caso vostro. Parlavamo di tassi, ma parliamo anche del fatto che sul mutuo non si pagano solo gli interessi, ma anche gli spread applicati dalla banca. Allora, dottoressa Azzolini, ricomincio velocemente da lei. Su che livelli si viaggia in questo periodo? Perché anche questa è una voce interessante su cui i consumatori possono trattare. Sì, riguardo il tasso variabile, siamo tra l'1,30 e l'1,80 in relazione ovviamente alla durata, che va da 5 a 30 anni, e al loan to value, che va tra 50 e 80. Loan to value è il valore del mutuo rispetto al valore della casa, traduco contestualmente per i nostri ascoltatori. Sì. E quindi 1,30 e 1,80 a seconda della durata. Montanari? Ma noi sulla parte, se ci riferiamo a spread a tasso variabile, noi fino al 50% siamo sotto il punto. Noi perché siamo, dipende, esatto, infatti, sotto il punto campagna, addirittura. Esatto, sì, siamo allo 0,99, abbiamo anche una campagna in corso in questo momento proprio su questo tipo di spread. Ma poi questo dura ma è come dire uno spread civetta proprio in funzione della campagna pubblicitaria e commerciale, dottor Montanari, no, e poi lo spread cambia. Rimane sempre questo? Assolutamente quello, no, certamente noi in questo momento lo stiamo pubblicizzando per operazioni fino al 50% di finanziabilità. Se saliamo oltre il 50% siamo attorno a un punto e venti, un punto e 50, insomma. Beh, sì, effettivamente dipende poi anche dalla durata e dalla finanziabilità, però diciamo che lo spread 0,99 è quello che in questo momento stiamo vendendo forse di più rispetto agli altri. Allora, volevo parlare adesso invece al posto dei tassi e dello spread anche degli scenari possibili, perché qui una cosa che spesso o non si chiede o le banche non fanno è proprio una simulazione su tutto quello che potrebbe accadere. In passato eravamo abituati a situazioni di stabilità, oggi sappiamo bene che invece i mercati ci presentano sorprese a raffica, e spesso queste hanno delle ricadute su tutto il mondo finanziario, mutui compresi. Sono crisi che arrivano direttamente a casa nostra all'improvviso. Allora, che cosa dobbiamo ipotizzare quando chiediamo alla banca di farci una simulazione sugli scenari potenziali, dottoressa Azzolini? Anche se la prima raccomandazione che io faccio sempre è di chiedere prima l'importo a cui avremmo diritto e poi andare a cercare la casa dei nostri sogni, per cui questa è un'altra raccomandazione della Rosciani che fa sempre. Seconda cosa, allora, stiamo discutendo con il nostro funzionario del nostro mutuo, su che cosa dobbiamo insistere in prospettiva, sugli scenari che possono verificarsi? Allora, sicuramente dobbiamo rappresentare il valore e l'impegno che vogliamo prenderci con la casa dei nostri sogni che abbiamo appena visto. L'ideale è anche rappresentare la situazione, diciamo, familiare, nel senso ben diverso che ci troviamo di fronte a una famiglia con bimbi piccoli in cui in proiezione a 15-20 anni, lo sappiamo tutti, poi il regime dei costi di vita aumenta, e quindi tener conto anche di queste specificità aiuta molto nella simulazione del mutuo più adeguato e più sostenibile in relazione proprio ai bisogni del cliente. In questo senso, da subito noi diamo una lettera di prefattibilità, perché immaginiamo anche che il cliente nel frattempo abbia già visto la casa dei suoi sogni e quindi è importante per lui già dal primo incontro poter avere una risposta certa sulla prefattibilità e uno scoring di affidabilità, diciamo, del cliente sulla base di quello che lui ci ha dichiarato. Poi con calma, tornando a casa, può tranquillamente mandarci tutta la documentazione a supporto, quindi non serve neanche che ritorni in agenzia, può tranquillamente caricarla e mandarla sul nostro sito, e a questo punto ci prendiamo un impegno di rilasciare la delibera creditizia entro 5 giorni. Ovviamente poi la stessa sarà confermata con la perizia fatta dagli esperti. Però le chiedo, dottoressa Azzolini, per esempio, tra il 2008 e il 2009 i tassi interbancari in tutta Europa sono letteralmente volati. In quel momento chi aveva il mutuo a tasso variabile ha praticamente avuto una situazione drammatica in casa, perché c'è chi aveva un mutuo al limite della sostenibilità finanziaria e non ce l'ha più fatta, e da lì sono partite tutte le varie iniziative di rinegoziazione, moratorie e quant'altro. Su questo punto i vostri funzionari, ma io parlo di BNL Bempe Paribas, così come parli tutti i funzionari di banca, abbiamo la certezza che ci facciano una simulazione che ricalchi un po' anche quella condizione là, che fu eccezionale, ma siccome si è verificata, abbiamo il diritto di chiedere anche: io faccio un mutuo a questo tasso, ma se si riverificasse quella situazione lì, a quanto arriverebbe la mia rata? Sì, assolutamente, è un diritto del cliente chiedere questa simulazione. Ed è un diritto del cliente poi nella vita del mutuo ripresentarsi a rinegoziare il mutuo. Ma le vorrei anche aggiungere, nell'ambito del rapporto consulenziale cerchiamo anche di prevenire eventuali situazioni che nella vita del mutuo il cliente potrebbe in qualche modo dover rincorrere. Quindi in qualche modo deve stare tranquillo nel momento in cui ha definito al meglio quello che è il mutuo per l'acquisto della sua casa. Poi ha la sicurezza che verrà gestito nella revisione di quello che potrebbe essere o il tasso di interesse o il cambio del prodotto o anche l'allungamento della rata. Alla fine ci potrebbe anche stare una revisione dell'allungamento della rata che porta quindi della durata del mutuo, che porta quindi a una rata più sostenibile. E quindi insomma insistete anche su questi punti: quante volte puoi cambiarmi nel corso della vita del mutuo le condizioni se ho bisogno, per cui anche questo è un tema molto importante. Devo chiudere brutalmente perché fra un minuto e mezzo deve salutarlo. Caso per caso, assolutamente. Leonardo da Trani, rapidissimo, grazie, buongiorno. Veloce. Ringrazio molto Nicoletta e Deborah, molto chiara. Sento una domanda: io avevo un mutuo variabile, ho fatto una surroga con un mutuo fisso al 2,85 da un anno fa, sempre per 20 anni, e sto pagando una rata di 680 euro. Sì. Volevo sapere, si può rinegoziare presso la stessa banca? Allora, si può fare tutto, dipende dalla volontà della banca, ma dottor Montanari, se una persona che ha rinegoziato a casa sua un anno fa glielo viene a richiedere di nuovo dopo un anno, voi che fate? Ma dipende, anche lì prendiamo in considerazione anche più volte le negoziazioni. Ah, ecco, voi lo fate, però sì, non è detto che lo facciano tutte. No, questo Leonardo deve aspettarsi, naturalmente. Non c'è nessun obbligo, ci sono diciamo così opportunità commerciali di relazione col cliente che possono spingere la banca a farlo anche più di una volta. Quindi diciamo, Leonardo, non esiste una legge che dice no, lei non lo può fare, però esiste anche il fenomeno del surrogatore seriale che in realtà chiede continuamente e poi anche lì la banca un po' si indispettisce. Purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, se avete domande scriveteci a cuore denari@radio24.it. I nostri esperti ci aiuteranno a darvi un orientamento. Laura da Roma ci raccontava che sta per stipularlo, ma le hanno proposto delle rate alte, sia fisse che variabili. Le sembrano troppo alte, Laura, significa che non è il suo momento di fare il mutuo. Ci ripensi ancora un pochino. Torniamo domani? Sicuramente alle 10:30.